Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi puntata speciale, monografica, tutta dedicata all'Africa. You're a good soldier, choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. La tentazione era troppo forte, non potevamo che iniziare con la canzone Tormentone della scorsa estate, l'inno ufficiale dei mondiali di calcio in Sudafrica, per parlare della vera e propria Africa mania che sta contagiando arte, design, moda, ma anche cinema, musica e cucina. Waka waka, cammina cammina, la traduzione è proprio come il percorso che in questi ultimi anni l'Africa sta facendo nell'immaginario, nella cultura, nella coscienza collettiva. L'Africa oggi non è più solo il terzo mondo da aiutare, è anche un continente con un'economia in ascesa. Il Fondo Monetario Internazionale calcola, pensate, un tasso di crescita del 5% circa tra il 2010 e il 2011. Continente dal quale emergono sì le emergenze di sempre, guerre, violenze, carenza d'acqua e di cibo, ma anche nuove tendenze che trovano terreno fertile altrove, Europa e America soprattutto. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Capita sempre più spesso di vedere sui magazine espressioni come African Style, Africa Mania, appunto. Ci sono anche molti festival e manifestazioni culturali. C'è anche un'Africa viva da raccontare. Patrizia, parliamo di scoperta o di riscoperta? Ma questo non lo so, però si dice Africa e si pensa a un continente, a un universo. In realtà è un pluriverso ed è anche tutto da scoprire. Credo che non abbiamo ancora visto quasi nulla. L'Africa oggi infatti è vecchio e nuovo mondo insieme, è un ponte fra design e craft, artigianato, coniuga passato, innovazione, natura e industria. È come se mettesse a fuoco in questo momento, senza volerla superare, la sua identità di fatto meticcia, che anche dal punto di vista del mercato è una condizione con un potenziale espressivo enorme. E a conferma dell'economia africana che ce la fa, dell'Africa che ce la fa, cominciamo con un'incursione nel mondo del design africano, che si sta ricavando spazi e riconoscimenti molto significativi a livello internazionale proprio come nuova frontiera dell'espressione creativa. All'edizione di quest'anno dell'ICFF, il Salone del Mobile di New York, per esempio i designer di Design Africa sono stati una presenza che ha avuto una grandissima risonanza mediatica e le collezioni che hanno presentato lo stesso. Ma esemplare e affascinante è la storia di Mabeo, un brand africano di mobili e complementi d'arredo che potremmo definire post-etnici, lanciato nel 2006 da Peter Mabeo, falegname imprenditore del Botswana, che tra l'altro è un nome emergente del design, segnalato tra i nuovi talenti al 100% design di Londra. Bene, Peter Mabeo ha portato sviluppo nella comunità locale, la sede è a Gaborone, appunto la capitale del Botswana, senza applicare il modello di sfruttamento classico, cioè salari bassi, materie prime e sapienza artigianale rapinate per creare valore e ricchezza altrove. Per questo motivo, ma non è l'unico, si può iscrivere questo brand nella categoria del cosiddetto good design, il design che fa bene al mondo, ma anche per i materiali usati, rigorosamente naturali e sostenibili, per i 30 artigiani altamente qualificati che ci lavorano e che garantiscono eccellenza e qualità alla produzione. I designer che collaborano con questo brand sono notissimi, come la spagnola ma milanese di adozione Patricia Urchiola, o come il trio danese Clairson Coivisto Rune, o ancora i canadesi Patty Johnson e Garth Roberts. Insomma, designer che hanno già nel loro DNA questa specifica miscela, funzionalità, raffinatezza e alta artigianalità. Il brand Mabeo ricorre, citato sulle più autorevoli riviste di settore in questo momento, ha partecipato alle più importanti fiere internazionali, ha vinto premi per i mobili solidi, ben disegnati, calibratissimi. Questi sono gli aggettivi che ricorrono nelle motivazioni e che già si trovano in un hotel di lusso a New York e in uno di Stoccolma. Per rimanere nell'incredibile bellezza del contrappunto tra design occidentale e africano, per usare le parole della stessa curatrice, l'italiana Paola Navone, ha avuto un eco internazionale, lo dico in italiano, più 20 Egypt Design, l'evento fondativo svoltosi a giugno al Cairo, di un progetto a lunghissimo termine finanziato dallo stesso governo egiziano per promuovere il design locale come volano della cultura egiziana insieme ai prodotti dei marchi internazionali. Di nuovo il valore è la creatività, la competenza artigiana antica africana divenuta necessaria, sempre nelle parole di Navone, per i designer contemporanei e non più solo semplicemente affascinante e ispirativa. E c'è un modo nuovo di raccontare anche i drammi dell'Africa. Parliamo di uno dei conflitti più sanguinosi e purtroppo più dimenticati al mondo, la guerra civile in Uganda, che fa da sfondo a Unknown Soldier, una serie a fumetti uscita 2 anni fa negli Stati Uniti, pubblicata da una delle major del fumetto, la DC Comics. Da quest'anno è arrivata anche in Italia e molto apprezzata a livello internazionale, ne ha parlato anche il New York Times. A disegnarla un italiano, Alberto Ponticelli, il nostro ospite di oggi. Buongiorno Alberto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Come nasce questa serie? Dunque, la serie innanzitutto è scritta da Joshua Dysart, che ha passato un periodo in Uganda per documentarsi, e il suo obiettivo era quello di parlare di un mondo che di solito viene abbastanza ignorato. Stando lì si è accorta appunto di come questo ambiente sia stereotipato ai nostri occhi, e invece ci sono tantissime sfumature che vanno veramente dal meraviglioso all'atroce. La cultura, l'aspetto, la guerra stessa, l'umanità delle persone, insomma tutti gli aspetti che generalmente conosciamo meno. Il fumetto, altri casi famosi lo testimoniano, sta diventando un mezzo di denuncia sociale perché arriva dove altri mezzi non riescono. Che cosa ne pensi? Ma penso che il fumetto sia uno strumento per raccontare e basta, cioè come tutti gli altri, come un romanzo, come un film, eccetera. Credo che in questo momento ci sia una sorta di moda del fumetto, molti ne parlano senza sapere di cosa stanno parlando, però ben venga, perché se la si cavalca in maniera intelligente il fumetto ha un potenziale ancora enorme e questo tipo di storie lo dimostrano. Devono ancora combattere contro una sorta di pregiudizio, cioè il lettore stesso si aspetta dai fumetti una sorta di intrattenimento di un certo tipo, quindi quando trova argomenti inaspettati come questo un po' si spaventa, trova l'argomento a volte difficile, a volte pesante, nel senso che può essere anche sconvolgente vedere certe scene di violenza, eccetera. E in realtà è una questione di contesto, quelle scene le vediamo tutti i giorni in televisione e non ci facciamo quasi caso. Una volta che dobbiamo leggerle in un fumetto sembrano quasi prendere un altro tipo di valore. È interessante perché è ancora una provocazione viva. Alberto Ponticelli, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Essere e avere. Nuovo in studio con Essere e Avere, quella che sentite in sottofondo è Angélique Kidjo, cantante del Benin, la prima diva dell'Africa secondo il Time. Al nuovo disco hanno collaborato Bono e John Legend, che sentite proprio in questa canzone Move On Up, ma vanta collaborazioni anche con Alicia Keys, Carlos Santana, Peter Gabriel, Joss Stone e molti altri. Ambasciatrice dell'UNICEF dal 2002, Angélique promuove l'educazione delle ragazze africane con la Batonga Foundation. Patrizia, significativo che si parli di prima diva africana. C'è anche nella musica il segno del cambiamento in atto? La musica è certamente una delle voci forti con cui l'Africa ha parlato e parla al mondo, e quest'ultima icona diva dell'afropop, diciamo che prosegue il cammino di molti, e non sono solo cantanti, perché ci sono scrittori, poeti, registi, artisti, stilisti, appunto, che hanno connotato politicamente le loro opere ancorandole all'impegno sociale, alla solidarietà, alla sostenibilità, in generale sostenendo iniziative emancipative per l'Africa, diciamo così. Da segnalare a questo proposito la candidatura al premio Nobel per la pace delle donne africane, sarebbe un premio collettivo, promossa dal CIPSI, il coordinamento di una cinquantina di associazioni di solidarietà e cooperazione internazionale, che, come dice il titolo del seminario che si è appena concluso a Dakar per costruire il dossier della candidatura stessa, portano sulle spalle i pesi e le speranze dell'Africa. La candidatura riguarda ambiti come l'economia, l'agricoltura in particolare, il piccolo commercio, il microcredito, ma anche la cultura, la formazione, salute, ambiente, in cui le donne africane hanno avuto e avranno, pare, un ruolo decisivo. Torniamo o stiamo nell'Africa che ce la fa, e adesso l'incursione è nel mondo della moda. Parliamo del brand keniota newyorkese Suno di Max Osterwise e Erin Betty, platealmente ispirato ai colori e ai motivi africani. Il prodotto è disegnato a New York ma confezionato artigianalmente in Kenya, dove è da più di un decennio che Osterwise passa molto tempo e fa una ricerca molto accurata di materiali e raccoglie stoffe. Anche in questo caso i principi chiave dell'azienda sono eticamente connotati: commercio eco, sviluppo del territorio, valorizzazione di competenze e formazione di talenti locali, reinvestimenti. E c'è anche un marchio italiano, Il Sistema degli Oggetti, che per la seconda stagione presenta collezioni sia maschile che femminile ispirate, diciamo così, al primitivismo, al tribalismo e esplicitamente alle maschere cerimoniali africane. E un caso interessante di liaison tra artisti africani e marchi moda è quello del pittore afroamericano Kehinde Wiley, che ha realizzato per Puma l'ultima collezione e ha esposto nello showroom del brand tedesco lo scorso aprile quadri con soggetto calciatori di Camerun, Ghana e Costa d'Avorio, ritratti come antichi re con la divisa Unity, una limited edition creata da Puma, come terza maglia per le squadre africane che hanno partecipato ai mondiali. E si chiama Pop Africana la rivista semestrale cartacea di moda e arte, che si posiziona come primo riferimento internazionale di stile africano, proprio come i classici quaderni di tendenza per la consulenza moda. Sambiga Altro Fratello è il nome invece del primo reality show responsabile, così è stato definito. Si tratta di un progetto multimediale nato da un viaggio in Burkina Faso di 15 persone di età e estrazione sociale diversa, supportato da diverse associazioni. Viaggio di turismo responsabile, appunto, alla scoperta, virgolettiamo dalla presentazione, dell'Africa che soffre ma sorride. Qui non c'è quello che qualcuno potrebbe aspettarsi, l'Africa della desolazione, della disperazione. Qui c'è l'Africa vera, dove una popolazione vive con quello che ha e riesce a gestirselo in maniera positiva, in maniera buona. È tutto bellissimo, anche le cose più faticose diventano veramente belle, perché questi bambini sono sempre dietro alle nostre spalle, non si sentono ma ci sono sempre. La comunità decide che qualcuno ha sbagliato, può essere frustato, poi vengono fatti sacrifici come al solito di polli e a seconda di come il pollo muore si decide se uno può essere sposato o meno. Io qui coltivo molti tipi di legumi, tutti i legumi che possiamo conoscere qui ci sono. Patrizia, c'è voglia di raccontare un'Africa diversa, l'Africa vera? Sì, c'è l'Africa, per esempio, raccontata nello sketch blog dell'illustratore inglese George Butler, che ha viaggiato in Gabon, in Gambia, in Senegal, Mali e Niger per 7 mesi, percorrendo quasi 20.000 chilometri. I suoi post sono i 150 disegni, degli schizzi acquarellati con cui descrive il Genius Loci di comunità dei Tuareg, oppure un voodoo festival in Togo, oppure disegna l'Africa sovrastata da un'automobile, eccetera. Quindi un diario di viaggio 2.0, possiamo dire, diventa una mostra che inaugurerà il prossimo 22 novembre alla Air Gallery di Londra. E poi c'è l'Africa raccontata, per esempio, dallo street artist inglese Banksy. A Bamako, capitale del Mali, l'anonimo artista di Bristol ha lasciato alcune sue tipiche e riconoscibili figure disegnate sui muri della città, figure poetiche di grande potenza narrativa, come lui sa fare, come la bambina nera con un uccellino giallo e blu che le mangia nel palmo della mano, o una parte di muro sbrecciato che è la sagoma di un bufalo sdraiato a cui lui ha aggiunto corna e due frecce conficcate in corpo, scagliate da due cacciatori con l'arco disegnati accanto. E c'è l'Africa che vuole raccontarsi anche a partire da se stessa in modo quasi bizzarro. Ci sono iniziative come questo progetto urbanistico appena svelato dal Sudan, che puntano a significare gli spazi urbani attribuendo loro forme di animali del continente africano. Questo progetto, pensate, prevede infatti che alcune città in rapida espansione vengano ridisegnate a forma di animale. La capitale, per fare un esempio, Juba, dovrebbe diventare a forma di rinoceronte, con gli uffici amministrativi e presidenziali da far coincidere con l'occhio della bestia. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a San Francisco su Africa Manie e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Buon pomeriggio Alessia. Grazie, buon pomeriggio a voi. Dunque, lo chef Eskender Esejed, originario dell'Etiopia, può senza dubbio definirsi un pioniere dei ristoranti pop-up, i ristoranti temporanei. Eskender infatti ha cominciato nel 2004 a preparare e servire pasti ispirati alla sua tradizione a casa sua, a gruppi di 15-20 persone. Poi la voce si è sparsa e alcuni locali e caffè della Bay Area hanno cominciato a proporre allo chef di organizzare presso di loro cene settimanali. Ed è così che è nato il progetto Radio Africa and Kitchen, ristorante nomadico, come si autodefinisce. Da 3 anni a questa parte, infatti, il giovedì e il venerdì al Coffee Bar di Bryant Street si possono assaporare piatti abilmente rivisitati della cucina marocchina, egiziana ed etiope, realizzati esclusivamente con ingredienti naturali e di stagione che Eskender personalmente o coltiva o acquista con l'unico criterio della freschezza. Lo stesso nome del progetto itinerante è una suggestione che rimanda ai capannelli di bambini, soprattutto, che in Africa si formano solitamente attorno a una radio che suona. Allo stesso modo l'intento di Eskender è proprio quello di riunire le persone intorno a un'esperienza autentica, gratificante e salutare. È di quest'estate poi la notizia che Radio Africa debutterà a breve come ristorante in carne e ossa. Questa evoluzione, diciamo così, in controtendenza, rende questo progetto ancora più interessante, perché l'intenzione di Eskender non è banalmente quella di aprire il suo primo vero e proprio ristorante, bensì quella di contribuire in questo modo allo sviluppo della comunità afro della zona, coinvolgendola attivamente nella trasformazione di un'area dismessa lì nelle vicinanze in una sorta di parco coltivato. Un edible park, lo chiama lui. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Qual è, tirando le somme, il filo conduttore? In quale concetto possiamo, per così dire, condensare la magia dell'Africa che sta contagiando il mondo? Dunque, una brevissima premessa. La storia dell'Africa è una storia costitutivamente ibrida, cioè una miscela di culture di lingue africane e di culture di lingue europee. Un po' tutte le culture sono così, cioè ibride, nessuna cultura è pura. Però la storia coloniale africana ha fatto proprio del métissage, del meticciato, una condizione costitutiva e implicita degli africani, che parlano le lingue locali ma anche le lingue europee, ma anche i pidgin, appunto le lingue ibride, e che hanno doppie appartenenze culturali perché hanno anche studiato Shakespeare come noi, o Flaubert, o Walt Whitman, eccetera. Quindi dal punto di vista della creatività al servizio della produzione, dell'imprenditoria, del mercato, dello sviluppo economico futuro dell'Africa, questo essere tra culture diverse, essere frutto di stratificazioni di lingue e di culture diverse, è un vantaggio competitivo notevole se solo gli africani, più che essere aiutati, saranno messi nelle condizioni di esprimerlo. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere Avere, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.